Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Quando non sapevi più a che santo votarti, quando sul registro c'erano ormai solo poche caselle di voto orale vuote e la tua era una di quelle, quando manco avevi portato il libro e la testa era rimasta sul cuscino e il cervello una tabula rasa e la voce afona di quelle cose sentivi dire «Fumagalli alla lavagna!» Un attimo di pura disperazione, un'occhiata d'intesa ai possibili suggeritori e uno sguardo al crocifisso, perché no? Non ti sarebbe servito a niente perché non sapevi niente e Gesù era muto o forse aveva altri guai in corso, ma male non te ne sarebbe venuto. È quello che penso ancora adesso. Che male può fare un piccolo crocefisso sul muro di una classe? Quando andai a colloquio coi professori dei miei figli al liceo, rimasi sconcertata nel vedere che sui muri delle aule non erano più appese le classiche polverose vetuste cartine geografiche, la tavola degli elementi e le solite noiosità, ma poster di VIP. Il crocifisso invece no, giammai, hanno sentenziato 8 persone della Corte Europea. Pensavo che un nome così altisonante non dovesse occuparsi di questioni di lana caprina, invece. Offende la sensibilità. Ma di chi? Ma de che? Dei ragazzi che da ogni parte che si girano vedono e sentono e leggono di sesso e violenza? Che non si scandalizzano più di niente perché ormai è tutto lecito? Dei ragazzi abbagliati fin da piccoli dal falso splendore dei centri commerciali, avvelenati dalla cultura del dio denaro, bombardati da una miriade di informazioni, confusi da messaggi contrastanti, impauriti dagli allarmi sulla sicurezza, sulle malattie, sul terrorismo, resi fragili dall'incertezza per il loro futuro, depauperati delle risorse naturali del pianeta, ora angosciati perfino dall'influenza, che è sempre stata un'alleata stagionale degli studenti impreparati. Che male può fare a questi ragazzi un crocifisso? Il male glielo abbiamo fatto e glielo facciamo noi adulti con le nostre idiozie. Non prendiamocela col povero crocifisso. Silvia. Sono di vario genere i temi che la vostra radio tratta e che spesso mi appassionano, in modo particolare quelli legati alla realtà sociale. Ma allo stesso modo mi chiedo cosa rimanga di tutte quelle belle inchieste, di tutti questi approfondimenti. Il caso di Cookin è un esempio emblematico. Ve lo immaginate un vostro fratello, figlio o parente prossimo alla medesima situazione? Quanti di noi hanno variabilmente a che fare con uno o più soggetti a rischio? Quante volte ci è capitato di imbatterci in una situazione familiare difficile, situazioni legate alla tossicodipendenza, al carcere, all'immigrazione, alla malattia, all'emarginazione e quant'altro? A chi possono essere affidate queste persone? Chi è che deve dar loro aiuto? Dov'è quello Stato che dovrebbe tutelare il suo popolo affinché tutti siano uguali di fronte alla legge? L'idea che ci sia un direttore di penitenziario che impartisce ordini circa il luogo dove è lecito massacrare i detenuti, che ci siano dei secondini che abusano del loro piccolo potere per sfogarsi fino ad arrivare alle botte su un povero Cristo, mi ripugna. Quante volte lo hanno fatto? Quanto è grande questa ingiustizia. Chi finisce in carcere è senza dubbio, tra i delinquenti, quello che è messo peggio. Lo sanno anche i bambini che i penitenziari sono pieni di tossici ed extracomunitari. Ma c'è davvero da chiedersi quale sia il compito di chi li gestisce. Un detenuto si trova già in uno stato di costrizione al quale è tenuto per espiare la propria colpa. Sarebbe bello pensare ad un personale carcerario istruito e capace di sane ed educative relazioni con i detenuti, dal secondino al direttore. Basterebbe che rispettassero i più banali principi di tutela. Basterebbe che non si picchiassero, che i detenuti non fossero vittime di violenze gratuite, che ci fosse quel minimo di legalità in grado di garantire almeno la dignità della persona. È chiedere troppo. Giuseppe, provincia di Torino. Vorrei intervenire sull'argomento del ponte sullo stretto di Messina. Sono recentemente tornato al paese di origine dei miei genitori, dove vive mio padre, circa 80 chilometri da Messina e 180 da Palermo. Tutto bene fino all'aeroporto di Palermo, con 75 minuti di volo. Ma poi? 65 minuti per fare 40 chilometri fino alla stazione centrale di Palermo e quasi 3 ore per fare circa 180 chilometri fino al paese dei miei. Cosa pensate che preferisca tra un ponte che spero possano vedere i miei nipoti, non certo io, e il raddoppio della ferrovia Palermo-Messina, ancora a binario unico? I soldi che spenderemo per il ponte serviranno a dare lavoro a molti, ma faranno ingrassare di certo politici corrotti, mafia e 'ndrangheta, oltre a distruggere definitivamente un territorio già dissestato. E poi, che pedaggio si dovrà pagare? Certo, molto più elevato del traghetto. Mi pare che il tunnel sotto la Manica sia in crisi da anni. Non credete che sarà lo stesso per il ponte una volta costruito? Cosa ci costerà la sua manutenzione? Si può già prevedere. Antonio, Torino. Desidero esprimere il mio parere favorevole alla costruzione del ponte di Messina, poiché sicuramente elemento portante per un incremento dei trasporti. E a proposito di ferrovie, vi ricordo che la linea ferroviaria Messina-Palermo da più di 50 anni è ancora ad un solo binario per un lunghissimo tratto. Per coprire il tragitto da Messina a Palermo occorrono più di 4 ore. Nessuno dei politici che si sono succeduti in questi anni ha mai fatto nulla per ampliare o rimodernare questa importante arteria ferroviaria necessaria per raggiungere il capoluogo siciliano. Quindi, prima di pubblicizzare ed enfatizzare le qualità e opportunità del ponte, perché non fate arrivare alle autorità competenti questo messaggio? Antonino. Non so se abbia senso fare il test antidroga agli onorevoli, ma non sono d'accordo che a casa loro possano fare quel che vogliono. Possiamo stare qui a spaccare il capello in quattro, ma mi pare che in Italia sia illegale anche il semplice uso degli stupefacenti. Io mi farei molto volentieri una canna e mi piacerebbe coltivare un po' d'erba in giardino. Non lo faccio perché ho una moglie insegnante che potrebbe perdere il posto se la polizia trovasse due piantine d'erba nel mio giardino. Allora esigo che gli uomini che fanno le leggi, per primi, non infrangano la legge e si astengano dall'uso di quelle sostanze che, se trovate a casa mia, potrebbero portarmi in galera o quantomeno causarmi dei grossi problemi. L'indignazione non è mai sterile. È importante pretendere che gli onorevoli siano, se non meglio di noi, almeno coerenti con i messaggi che ci mandano al momento di chiedere il voto o quando si pavoneggiano da difensori della civiltà, quando votano in Parlamento assurde leggi contro l'utilizzo delle cosiddette droghe leggere. Dobbiamo sempre indignarci verso chi predica bene e razzola male. Non possiamo sprofondare nell'atteggiamento disincantato di chi le ha già viste tutte e rinuncia a sperare che qualcosa possa cambiare. Salvatore. Buongiorno, cara Radio 24. Sono un elettore di centrodestra, non tanto per ferma convinzione della giustezza delle idee che stanno da questa parte, ma più che altro per la pochezza di chi sta dall'altra parte. Mi permetto quindi di dare al neo eletto segretario del PD, Pierluigi Bersani, un suggerimento. Caro Bersani, se volete veramente conquistare il consenso di quelli che, come me, votano più per dovere che per speranza, fate una cosa di per sé semplicissima, ma di enorme impatto verso gli italiani sfiduciati dalla farsa politica. Tornate a fare l'opposizione costruttiva che sfida il governo sulle cose urgenti da fare. Basta gossip, basta denigrare tutte le decisioni della maggioranza, ne faranno una giusta, no? Proponete da subito la riforma parlamentare, quella che tutti hanno invocato, ma che a nessuno sembra più interessare. Proponete una riforma delle pensioni che mi faccia lavorare anche fino a 60 anni, ma che tagli da subito i privilegi e le numerose pensioni d'oro che vi spartite allegramente. Incalzate il governo su questi temi e su pochi altri temi che vi stanno a cuore e vi prometto che alle prossime elezioni vi voterò con enorme soddisfazione. Marzio. Caro Marzio, mi associo agli auguri anche senza fare promesse elettorali. Sarebbe proprio ora che il metodo del confronto prendesse il posto dello scambio di accuse o peggio ancora delle invettive. Un confronto sui tanti problemi che il Paese ha di fronte, dove vi può essere un accordo tra maggioranza e opposizione. Un'opposizione che voglia diventare forza di governo deve innanzitutto dimostrare di avere idee chiare e progetti concreti, senza necessariamente osteggiare quello che la maggioranza propone. Ma è una logica, purtroppo, ancora lontana e per la quale c'è ancora molto da lavorare in entrambi gli schieramenti e sottolineo in entrambi gli schieramenti. Ora tocca a Bersani, lo si potrà giudicare presto se riuscirà a riavviare il confronto sui temi concreti, come quello delle riforme istituzionali e delle pensioni, temi su cui troppo spesso la sinistra si è presentata come un fronte del no. Nel Nel campo dell'insegnamento c'è un evidente contrasto tra i diritti acquisiti dai dipendenti statali, che provocano un immobilismo nella ricerca del fine del proprio mestiere, e la reale capacità di ottenere risultati validi nel campo formativo. Ritengo utopisticamente che noi dovremmo essere i formatori degli italiani del domani. Non vi sembra che un insegnante dovrebbe essere come un libero professionista, assunto quindi con un contratto libero da un minimo a un massimo, in modo che chi vale possa pretendere e chi non vale, al contrario, possa vedersi ridurre lo stipendio fino al punto di dover cambiare mestiere? Ferdinando. Complimenti alla Gelmini. Aspettava di sedersi sulla poltrona di ministro per decidere di avere un figlio. Non voglio sostenere che chi assume un incarico pubblico debba rinunciare alla propria vita privata, ma quando qualcuno prende un impegno di rappresentanza, dovrebbe tenerne presente il peso nelle sue scelte private. Una donna in gravidanza rappresenta degnamente il tipo di donna di cui ogni azienda, piccola o grande, ha paura, e in quest'ottica, il tipo di donna che mortifica il genere femminile. Spero di non dover ascoltare commenti moralistici del genere «la volontà divina», soprattutto in considerazione del suo stato di non sposata e quindi all'esterno dei principi del cattolicesimo. Daniela, Milano. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.